c'è ancora. Hola, hola, hola, prova. Prova 1, 2, 3. Prova stazione diabolica, stazione diabolica, prova. Stazione diabolica, 1, 2, 3, prova, prova microfono. Vediamo un po', 1, 2, 3, prova, c'è qualcuno in ascolto qua, canale 10? Auliguli. Tutto, hai visto l'ultima fotografia che ti avevo mandato del piantone dell'antenna, che nell'ordine come è messo così va infilato, cioè va piazzato. Sì, già l'ho visto, sì, già l'ho visto. Vabbè, quello viene in automatico quando lo sta smontando, la guardi e poi la piazzi così stesso. Sì, dimmi una cosa, attaccato a quel piattino c'è il coso del TL, c'è. Ma quello è smontabile il TL? Sì, si slitta quello, nel piatto c'è la freddatura, il PL avvizza e si avvizza. Io, infatti quello l'avevo anche cambiato, quello, oh, qua. Perché quello mi si era rotto, il contatto centrale. Allora sono andato a Fusaro, l'ho comprato e ci ho messo quello. Anzi, io lo volevo di quelli a dado, col dado dentro, dado da una parte e dall'altra, invece no, non ce l'avevo, allora ho preso quello, e va benissimo, che è l'originale praticamente. Capito? Sì, quelli sono, per me sono tutti quasi uguali, sono, però è meglio mettere sempre l'originale, meglio mettere. E ti volevo dire un'altra cosa. Allora, qui ho visto che c'è il dove entra e devi incastrare le cose della bobina. Quella bobina, una volta che tu la chiudi, dettagli le cose in resina, allora lì esce la bobina insieme anche. La bobina è infilata nel tubo di resina, la bobina è infilata dentro il tubo di resina, per cui tu quando la sganci, quando la smonti, ne togli la bobina e poi se vuoi ne puoi togliere il tubo di resina dal tubo in alluminio. Sì, ma la bobina rimane con il tubo di resina, attaccato. Sopra la bobina di resina, alla tubo di resina, la bobina è infilata lì. E poi è collegata al tubo di alluminio, l'ha visto quel tagliettino che c'è, quella spaccatura che c'è nel tubo. E lì c'è un filo, un pezzo di filo, saranno un centimetro e mezzo di lunghezza, no? Quello del filo della bobina, che è piegato e entra dentro quell'incavo che c'è, quel taglio sottile, sarà un taglio di seghetto, un po', che parole. Sì, quello lo sto vedendo. Allora, ti voglio spiegare un'altra cosa. Allora, se io voglio saldare il filo della bobina incastrata lì, senza il tubo di resina, non lo posso fare. Sì, tu ne togli la bobina, intanto se è staccata, la togli la bobina, no? Allora, una volta che l'hai staccata, la bobina, e ne puoi togliere anche il tubo di resina, e salde prima la bobina all'alluminio, e poi ci infili di nuovo la bobina, il tubo di resina nella bobina, e a sua volta anche dentro il tubo. Sì, perché è vero che con la bobina, col tubo c'ha un buco che entra dentro il filo. Esattamente, lì quel filo lì finisce al contatto che c'è all'esterno dell'antenna, dove ci va attaccata la cosa, quella molla grande che c'è nell'antenna. Ho capito, dove c'è la spirale? Ho capito. In pratica è tutta smontabile, no? Sì, tutta smontabile, certo. L'unico problema, sai qual è? Per togliere la calotta, cioè tutta la plastica, diciamo, quella nera, quella lì è fissata con i rivetti, è fissata. Allora cosa ho fatto io? I rivetti li ho strafalati e li ho eliminati, e poi ci ho messo un pezzo di barra filettata di parte in parte, e ho messo da una parte e da dall'altra, così è anche più ben tenuta, capito? Perché attraversa poi, dalla calotta attraversa tutto il tubo, capito com'è? Sì. Ieri sono andato sulla Bitcoin, ho visto soldatori, costa 19 euro, costa molto. Mi ho fatto ridere, tutto il martello con la cosa per andare a gas costa 19 euro e 16 euro una bacchetta di taglio. Siete da macchie dove? Oh, non è possibile. No, invece non sai cosa stavo pensando io nel fare. Allora, anche che fissarla in quel taglio lì, girarla la bobina, staccarla lì, fare un forellino piccolino, grosso quanto il filo, proprio un forellino, e infilarcela dentro. E poi quando ci metti la bobina rimane pressato e sempre in contatto. Io penso che vada bene lo stesso, senza bisogno nemmeno di saldare, perché allora rimane pressato, rimane al contatto. Cazzo, sì, potrebbe, potrebbe anche, ma no, non è che rimane pressato, perché se il tubo entra giusto giusto già così, figurati se tu gli fai, glielo sturgi appena appena, se glielo sturgi appena appena non fa niente, non ci riesci più a mandarli dentro il tubo, capito? È un bel casino. E buccare il tubo sarebbe indebolirlo. No, dove c'è il taglio stesso? A fianco dove c'è il taglio? Lì, dove c'è il taglio? Con una punta da un millimetro, una punta di col trappano, fai un buco e anziché metterlo dentro quella fessura il tubo, il filo, infilarlo dentro il buco e poi magari metterci, facendogli anche l'asola, si può fare anche l'asola e il buco, in modo da poter saldare poi nell'asola. Capito? Non so se mi sono spiegato bene. Sì. No, perché ho intenzione di quel filo che da lì, di passare un po' la linea, limarlo e appiattirlo un po'. Mettere dentro, poi tutto il resto sopra, mettere tutto lo stagno. Sarebbe bello fare così, però bisogna vedere se riesce a saldare, perché il problema è sempre il tubo, perché ci vuole il saldatore che scaldi molto. Io addirittura stavo pensando, ma se io il tubo prima lo scaldo bene, perché tanto si toglie la resina, no? Il tubo di resina si toglie, se lo scaldo bene ad esempio col gas, anche nella cucina per dire, lo scaldo, e quando è ancora caldo poi faccio la saldatura con lo stagno, io penso che vada bene lo stesso, può essere che si riesca a saldare così. No, ma cosa ce l'abbiamo? Il martello, cosa io non l'ho comprato perché mio cognato mi ha detto, dice guarda che ce l'ho a casa, ha detto se ce l'hai tu non lo compro, ma detto che ce l'ha e non l'ho comprato per quello, se no l'avrei preso ieri. Ah, io ho capito, se uno ce l'ha, indubbiamente già è meglio, così si riesce a fare, se riesce a fare il lavoro come si deve, certo. Ma suppongo che vada bene. E poi una volta fatto quello stavo pensando di fargli una passata di nastro isolante, ma solo una passata però, perché se ne metti troppo poi magari che non entra la bobina, la calotta, invece con una sola passata di nastro isolante in modo che rimanga sempre attaccato, capito? E poi ho visto la piattrina che tu hai messo, ho visto. Allora, dammi come c'è la piastra, diciamo, la lamiera in acciaio, cioè, oppure zingata, però meglio in acciaio, se per fargli tutti quei fuori che ci sono è facilissimo. È piatta, non bisogna sagomarla, niente, ed è perfetto. Sì, ma certo, no, l'unica soluzione è perché allora in quel caso lì se cambi la piastrina, intanto ho visto che non è arrugginita la mia, è ancora abbastanza zingata, per cui niente ruggine, nonostante che era attaccata almeno un paio d'anni. Ma a parte quel discorso lì, se tu fai la piastrina in acciaio inossidabile, l'unico problema è il foro dove ci va il PL, e cioè il PL da base o da pannello. Allora in quel caso lì devi utilizzare il PL, quello con i dadi, da una parte e da dall'altra. Se no quello come fa a abitarlo? Se no devi fare la pavimentatura. Perché questo cos'è? Abitatura è questo che c'è? Dovrebbe avere il meloncino a parte? No, a vite, proprio abitatura. Come se abita un dado o un bullone, la stessa cosa. E beh, qual è il problema? Gli facciamo la pavimentatura. La filiera? Sì, si può fare la filettatura anche nel piattello nuovo, certo che si può fare, basta avere il maschio per poter filettare e uno deve andare in una officina che te la fanno tranquillamente. Allora non lo faccio qua che non c'ho la filettatura, allora vado in officina, mio fratello scende, me la faccio. Cosa ci mette a fare? Lui c'ha la filettatura là. Beh certo, allora sì, allora non ho problemi, non ce ne sono. Così in quel caso i problemi non ce ne sono. Sì, perché sarebbe meglio farlo in acciaio inossidabile, è tutta un'altra cosa. Almeno si è sicuro che non. Perché sai cosa succede? Perché se si dovesse arrugginire, a un certo momento poi il contatto nei radiali non è più perfetto. Però ho visto che ancora è abbastanza pulito, dunque niente ruggine né da una parte né dall'altra, e dovrebbe sempre andare bene. Poi, quando sarà il momento, al limite uno se lo fa nuovo, fiatello, recupera sempre l'antenna. Infatti. No, io l'ho guardato oggi, sono uscito, l'ho guardato, ed è lucido lo stesso il mio là sotto. Io lo vedo la faccia di qua, la vedo lucida. C'è qualche puntina nerita, però poco. Deve essere come passerà, scende l'acqua, la pizza. Sì, oppure c'è un'altra soluzione, Fra, che forse è la più semplice di tutti. Prendere il piattello, vai da uno di questi che fanno la zingatura e fanno zingare di nuovo, una volta passato non gli fa male, al limite no. Ecco, se si dovesse formare la ruggine, vai ad andare da uno che fa zingatura, da un fabbro e ti fa la zingatura al piattello di nuovo, se che ti durasse 50 anni. Non è difficile fare quello lì, non è difficile. C'è tutta la trattatura data, mio fratello me lo fa direttamente lui, me lo fa che fanno male da lui tutto quanto, vedrai che esce perfetto, lui c'ha tutto. Se un fabbro, glielo dico, la trattatura da lavoro ce l'ha senz'altro, certo, uno del mestiere è un gioco per uno del mestiere, ma lo so fare anch'io, se avessi avuto il materiale me lo posso fare anch'io in bottega, io ce l'ho la colonna per fare i buchi eccetera, che al limite cosa bisogna, una bisa è catto, e lo mette sopra il coso, come si chiama, sopra la, per fare i buchi, no, sopra il al materiale nuovo, metti quello vecchio lì di campione e buchi dove ci sono tutti i buchi, ecco che hai fatto la misura perfetta, non puoi sbagliare, con la punta giusta naturalmente, che non sia più larga, con la punta da trappolo perfetta, e fai i buchi esattamente come sono quelli, per cui che problema avete? E cos'è che ti dura a te? A gloria. Ma tutta la sera è che si intendi, e avanti di bella dolore, boh, fra, dimmi tu. Aiuto, bene, esci una fuga, esci, io pensiero l'ho strappato. Tu sei da multa, capito, sei da multa, poi sei tutta la sera in PMR, capito, e io ero qua in ascolto, poi alla fine mi sono stufato, ho abbassato il volume e sono uscito a comprare fritelle, capito, sono entrato adesso, quindi non mi dichi io non ero in radio, io da Gintese, con Gattiano, PMR, con Luca, capito Mervelo, buonasera, ancora c'è che l'antenna, e tu non la vai dare da sotto, no l'antenna, non la, vai, la mia era lucida da sotto, hai capito, è la contropiastra, che è una grandissima gaggada, la contropiastra, da sotto è sempre bella luce l'antenna, quando tu poi smonti la piastra e la contropiastra, vai da dove sotto la contropiastra, e poi me la repulla. Se vuoi che ti duri di più quell'antenna, quando le fai manutenzione, ti fai un cappelletto, avvisi un imbuto grande, largo, lo fai entrare nel piantone e lo fai scendere sino a coprire tutto il cappelletto, e tu vedrai che sopra, naturalmente, nel tubo di discesa dove entra il cappelletto, lo metti in silicone, e tu avrai, vedi che ti dura di più la contropiastra, perché quella piastra di sotto, quella rimane sempre bella pulita. Quando tu la smonti, chissà, e ne vuoi la contropiastra, quella che appoggia per stringere il radiale, mi dai la ripulita. Ma intanto la piastra mia è lucida, l'ho macellata, è già la lista della fotografia, che me lo mandate, se tu la baglia l'ho macellata, ed è lucida, anche a Franco l'ho mandato la fotografia, ce l'ho fatta che dall'altra. E poi ti ha chiamato in PMR, e se tu eri all'ascolto, vuol dire che non mi hai inteso, vuoi che ti spiega che c'è storia, boh, non lo so, io. Quale contropiastra? Ce n'è una sola, ce n'è, non sono due. Tante dicevo, c'è una contropiastra che stringe i radiali nei cavallotti. No, non è così la motobatturbo, ce n'è solo una. Ce n'è solo una, e poi c'è il bocchettone grande, la plastica, quella nera, diciamo, dai, per intenderci. Che ci sono i fori, e se entra dentro in chimice, entra. Ecco perché i radiali difficilmente non si rompono. Perché? Perché non è sostenuto da una contropiastra, bensì dalla plastica, o meglio dalla resina, perché quella è resina sicuramente. ce n'è solo una di piastra e basta qua. La mia. Sì, io ne prendo una solo e poi ci sono i canali dove vanno i radiali, poi li metti la piastra sopra, spingi col bolloni, con il vitro, anzi col bolloni e basta. Quel dove tu c'è, cioè quel sotto dove c'è il mollettone quello nero che entra nei radiali, sotto lì per mantenere l'appoggio c'è un affare di alluminio, di ferro, cos'è? Quella non è una contropiastra. Io non è vero, io vedo solo plastica. È una piastra, una solo, contropiastra si intende due piastre, quella è una, qua. Non è una, c'è il piatto di coso e più c'è la base in resina, dovrebbe essere, o plastica dura, non lo so, dovrebbe essere quello. E nella plastica dura ci sono i canali dove si infilano i radiali, perché i radiali sono da 10, a differenza magari della Mantova 5, che probabilmente ha la doppia piastra sotto e sopra, ed è per quello che si rompono i radiali. Perché? Perché quando soffia il vento li tira contro l'altra piastra e si rompono, mentre invece lì c'è la resina e la resina ammortizza perché oscilla, ed ecco che non si rompono mai i radiali, tanto più che sono da 10 mm di diametro anche i radiali della Mantova Turbo, per 150-160 lunghi. Giulio, ce li ho nuovi, non me ne dia mai di che cose che ne ha trattato dritta, Giudito, e tutte e tre, in giro degli anni, i radiali si sono rotti, perché tu mi insegni che se un piccione o un uccello di grande dimensione, il corvi, quegli uccelli lì, si appoggiano ai radiali in fibra, la fibra oscilla e non si spezza, quello col peso si piega, capito? Perché si mettono in punta in mezzo, si piega, piegandosi perde la sua forza e si rompono quei radiali. Ma cos'è altro una giugiambata? Ne avevo preso 12 di ricambio, uguali, stesso diametro, perfetti, con i tappini suoi, originali, guarda, ti mando la foto, ce li ho qua dietro la porta. Quelli li ho presi da Bricoman, no? Quelle barre che ci sono lunghe, le ho fatte tutte a misura, come, perché ne era rimasto uno, mi pare, uno, e me li ho tenuti di scorta. Poi mi sono stufato, ho trovato la Mantova 1, che io della Mantova 1 e della Mantova 5 non ho mai perso un radiale, non si sono mai rotti, mai, e poi non è a contropiatta la Mantova 1, assolutamente, c'è qualcosa in ottone, ottonato, i radiali entrano dentro, circa 7-8 centimetri, ok, e poi vanno bloccati con la vite autofilettante da sotto, non si staccano essi, tranquillo, anzi, sono male burra e scinni se tu non le metti il grasso, la vite poi si spezza, non li togli più, allora devi drabbanare come mi è già successo una volta. Però la Mantova Turbo, per quello che costa, quel sistema lì per me, per l'esperienza che ho avuto io, è una grandissima cagata. Lasciamo stare il discorso quanto costa, questo è un altro discorso, non metta niente io. Non lo so, io la Mantova 5 non ce l'ho mai avuta, la Mantova 1 nemmeno, dunque non so com'è. Io so solo che questo qui ha una piastra e i cavallute, cioè i radiali, entrano dentro un inserimento nella resina, che poi all'interno, non in prossimità del bordo di questo ingresso, ma all'interno ci sono dei bolloncini in acciaio inossidabile col dado posti sulla parte posteriore, sulla parte superiore della calotta, che infatti i dadi rimangono tutti inseriti dentro, anche se tu svizzi i dadi non ne cadono, rimangono inseriti sempre dentro, rimangono. E sono tutti in acciaio inossidabile, quindi quando io li ho svitati con la massima facilità, che sono delle svitti da 3 mm di spessore, di diametro, dai. E sono in acciaio inossidabile e si svitano benissimo, io perlomeno io li ho svitati benissimo, e sono 8, non sono 1, sono 8, e sono tutti lucidi veramente. E la piastra, quella che è la mia zingata, e non c'è ruggine né da una parte e né dall'altra. Guarda che io ti avevo mandato anche la fotografia, sia da una parte che dall'altra. Forse tu non l'hai controllato, non è che si è dato tutto, ma l'ho mandata anche a Franco. Franco lo può testimoniare, vedere che la piazza è pulita da una parte e dall'altra. Ecco come. Dai, facciamo per riprendere a Franco. Vai Franco. Capo. Sì, è pulita. Ho fatto l'altra, io la vedo pulita la vedo, nella lucida. Poi vediamo quando la accendo, io non l'ho vista, cioè, la vedo solo in fotografia, poi è lucida. Poi quando la vedo la mia magari sarà più diversa, sarà più, avrà più lato più lucido, ce l'ho un po' in più di giugno io ce l'ho. Poi vediamo più avanti, quando la accendo, vediamo la mia com'è. Conosco bene quell'antenna, non so come è fatta Giulio. Sto giocando di te, quei cavallotti dove tu poi appoggi il piantone, quello nero, per capirci, che va a appoggiare su quella piastra, entra nel radiale e si stringe con i bolloncini passanti. Non so come è fatta, l'ho vista la foto tua. Non ti sto dicendo che la tua non è luce, la mia era tutta pratica. Quei cavallotti dove entrano i perni, le viti, i bulloncini, come li vuoi chiamare, erano tutti arrugginiti. Guarda che l'avevo data a Fabrizio, perché le serviva per fare praticamente un'antenna verticale. E ho detto recuperami quel piantone, e ce l'ha buttato perché era tutto irrecuperabile, capito? Poi non lo so perché, per come, magari la mia era una serie vecchia, ma anche la seconda non ha fatto quel difetto, ma l'ha perso tutti i radiali, ti posso garantire che erano stretti bene, messo il grasso di vasellina sopra per poi smontarli, la conosco benissimo, tranquillo, la mia è andata così, infatti non ne ho più preso, sto dicendo qualità-prezzo, no, perché costa mi pare 20 euro in più, potevano fare qualcosa di diverso lì, da riservare meglio quei cavallotti che ci sono proprio dove entrano i radiali, capito? Può darsi pure che la mia, hai visto il mozzo, dove c'hai tu la giuntura di resina, poi c'è il mozzo quello nero, dove entra i radiali, lì se controlli bene in giro, c'è un mastice, che cosa è, non lo so, magari a me ce n'era poco, entrava l'acqua da lì, non lo so Giulio, non lo so, sta fatto che non agio più comparato, perché mi ero stufato di cambiare i radiali, purtroppo qua, essendo in alto, i corvi, si è giù avuto un gabbiano una volta in un'altra punta dell'antenna, un gabbiano, allucinante, si calano i gabbiani, perché essendo molto alto, allora si sentono protetti, si stanno a punta di gasino, capito? E tu immaginati un gabbiano in quei radialini lì, gandubatti, che dà il colpo delle ali, come ti fai dei radiali. La Mantova non mi ha mai fatto, non mi è mai entrato un goccio d'acqua, la Mantova 1, mai. E ce l'ho, quindi io sono già 7 anni che sono qua al secondo piano, 6 anni, dai, 7 anni, facciamo 7 anni, 7 anni più 2 sono rimaste via Pascoli, sono 9, quindi quell'antenna l'ho comprata nuova per montare in via Pascoli e ce l'ho 9 anni. Io sono ad Alpetta Duomo, quindi la vedo, vado tutte le volte che salgo su, stacco il PL, controllo se c'è acqua, se ci manca grasso le metto il grasso, è sempre bella ordinata, sempre bella ordinata. L'altra mi veniva a disipire, guarda, la disperazione, perché quel piantone l'aveva buttato via Fabrizio, non serviva a niente, ci ha preso solo i tubi in alluminio lui per farsi una verticale, capito? Tutto lì, comunque, la tua ho visto, le foto ce le ho qua, le ho viste, è bella lucida, può darsi che sia andata meglio della mia, magari anche quella di Franco, magari la mia, come ti ho detto, ci mancava del mastice dove c'è il piantone dei radiali e quindi entrava l'acqua da lì, non lo so Giulio, qua, non lo so, sta fatto che era tutta canta rugginosa sotto. Ciao Eugenio, un attimo. Sì, beh, non lo so, può darsi che tu mandi da prima, e può darsi che col piatello lo abbiano loro fatto in maniera diversa, che non si arrugginisce, o perlomeno che non sia arrugginito. Io l'ho tenuto un bel po', sono piazzata, non è che l'ho tenuto una settimana, no. L'avrò tenuta almeno, senza esagerare, ma minimo 2 anni e mezzo, 3 anni, piazzata, e dunque arrugginisce, si sarebbe dovuto arrugginire. No, guarda che qui, nella zona dove sono io, una volta c'era un volo sembra un po' di una tesina di biccioli, tutti quanti roba in radiale, per cui e devo dirti che io i radiali non ne ho trovato uno, ma uno, nemmeno uno che ci sia appena storto, niente. Se fossero deboli, come stai dicendo tu, ripeto, il valore di quell'antenna è che quella calotta, col vento soprattutto e col coso, oscilla ed ammortizza. Perché? Perché il materiale è elastico, mentre invece se fosse stato tutto sotto e sopra il materiale ferroso o qualcosa del genere, lì sicuramente si sarebbe piegato il radiale, invece non se ne è pigliato uno, e sono lunghi, sono radiali da 1,50 m, 1,60 m, non è poco, e non ce n'è uno che si sia piegato. Fra tutti questi sono 8, cioè lo sai benissimo, e non ce n'è uno che è piegato, sono tutti tanti dritti e sono tutti pulitissimi, lucidi, lucidi veramente. E ne batto Eugenio, avanti Eugenio, buonasera. Io beh, io già vento, anch'io ho la V e la U alta 6 metri, l'antenna contro la radialina, cioè io ci rabbia, rifatti la bippa, pulisci boccia, mi boccia io in alto, non c'entra niente, oggi. Sicuramente la mia, Giulio, attento che io l'ho comprata 10 anni fa, non sto parlando di adesso, perché io ho già 7 anni, 8 anni che ho la mantova, uno, capito? Quindi quella ce l'avevo la prima, perciò può darci pure che la mia, non la piatta, non era neanche zingata, non era neanche zingata. E poi le hanno zingate, non lo so, si sono accorte magari che la gente si lamentava, non lo so. Sta fatto, guarda, che non ce l'ho più quella, non ce l'ho più, non ce l'ho più. C'è un altro piantone che però è nuovo nuovo. Quella non ce l'ho più, l'ho proprio buttata via, anzi la verità, ti sto dicendo, l'ho lavorata tutta a Fabrizio, quel pezzo che aveva tagliato e si aveva portato via i tubi. Per fare una verticale, quello ce l'abbiamo buttato e non serviva a niente, era completamente tutto messo male, quindi può darsi pure, come dici tu, che la piastra non era zingata, il lavoro non era fatto bene, quindi è andata a farsi fottere l'antenna, capito? Ma era una cosa allucinante, mi ero stufato, perché quei cavallotti poi quando ho tirato su erano tutti rugginosi, quindi non c'era più aderenza del radiale, può darsi pure che era da lì che si rompeva. Quindi era una rottura di scatole. Alla fine Mario Bavantale mi aveva portato la Mantova, uno proprio da Mantova, che lui si trovava lì per lavoro con l'articolato, e ho montato quella e non ho più avuto problemi. Come avevo la Mantova 5 per 12 anni, assolutamente. Tu immaginati, non so se ti ricordi dove abita Antonio Reventi, dove abitava, no? Lì una traversa via Ducare Abruzzese, non mi ricordo che via è, vabbè. Tu immaginare che Antonio abita 15 anni ai punti, se non di più. L'antenna era già lì 10 anni, quindi ho 15 e Desi sono 25 anni. Tu passa lì che c'è ancora l'antenna piazzata perché non l'ha tolta, ok? Col tubo, tutta bella dritta dritta, bella ci manca il radiale della Mantova 5. Nulla, è perfetta, perfetta. Se io dovessi andare lì e attaccare il cavo d'antenna sono sicuro che non c'è manco stazionale con l'antenna. Beh, 25 anni è andata a Gabistudia. Vai fra. Vabbè, però le antenne dipende come le fai. Se le fai bene, vulcanizzate bene, tutto quanto, quindi vari, a Burgini 2 anni, ad Burgini 2 anni ne ha vari mega. Io c'avevo, quando avevo la Mantova 5, ce l'avevo parecchio tempo, ce l'avevo parecchi anni, e l'avevo vulcanizzata bene da tutte le parti, quando l'ho scesa il bulone è come quando era nuova, e dica nuova ma penso. Guarda che io ho le cose, le fascette, la VURT, e quando tolgo il vulcanizzante mi ha giubiazzato antenne, ma mi ha giubiazzato un be. Belle ancorate, belle fatte, io non ne ho tiranti nella Mantova, ce l'ho a 40 metri dalla testa, stai attento, c'è un bel tubo di acqua da 4 metri, due attaccati, uno e mezzo attaccato al muro e il resto è tutto fuori, non c'è né tiranti né niente, l'antenna è perfetta, non ha mai tratto acqua, stazionari zero, proprio zero, zero, AT230, no, ZG, Kenwood, strumento Kenwood, zero, manco ci muove, zero, dall'1 al canale 80. l'antenna è montata bene, anche l'altra è montata bene. Il problema, ti ripeto, che entrava, sicuramente entrava acqua da qualche parte, stagnava sotto e si è tutta vrasegata, fra, capito? È tutta vrasegata. E questa io l'ho smontata la via Pasqua, l'ho portata qua, l'ho smontata col cacciavite e le fascette, manco tolto vulcanizzante con la taglierina, è nuova nuova, ma anche adesso se vado ad aprirla è nuova nuova. L'unica modifica che avevo fatto in punto, ho tolto quella cagata di plastica che c'era, con quella vite, che quella è una tira fulmine, e le ho messo un tappo di sughero con silicone, capito? E basta, in punta, proprio fatto a misura, è entrato dentro il tubicino, a cappelletto, però di sughero, e boh. E vabbè, comunque, le antenne, certo, le antenne ci vuole anche manutenzione, però io dico che se l'antenna deve durare 10 anni e poi te ne dura 2, alla fine ti si girano le scatole e non le compri più, capito? Tutto lì. Vai Giulio, rivai per Eugenio. Ciao Eugenio. Sì, sì, sì, certo. Beh, è sempre quello, pensa che c'è ancora il funghetto tutto intero, piazzato, ed è adesso l'antenna adesso è per terra, no? nel poggiolo. Che il foglione è lungo 8,50 m, io l'ho messo per terra perché non l'ho smontato lo stilo centrale. E c'è ancora il funghetto, anche l'altro giorno l'ho guardato ed è tutto intero, non si è rovinato nemmeno quello è plastica, solo che io attorno agli ombrellini, diciamo così, ai gancetti di questo funghetto, ci avevo fatto una passata di nastro tutto a uno a uno, ogni gancio che c'era avevo fatto una passata di nastro, perché sapevo che prima o poi la plastica si secca e cade il pezzo. Invece io l'ho lasciato ed è ancora, e ora sono parecchi anni, non è un giorno, no, per dire, no, e c'è sempre, no, non ci sono problemi. Sì, lo so, poi dipende naturalmente dal tipo di antenna. Ad esempio Gianni si è lamentato, ha detto anche l'altro giorno, quando è ieri, la mattina che stava parlando con noi, che ne sono caduti tutti i radiali, li ha rimessi e ne sono caduti di nuovo. Io non so da che cosa dipende, so solo che ed è la Matoma 5 quella di Gianni, per cui vedi bene che a questo punto, se poi dovessi io dire quanto mi è durata la cosa, la stella che aveva 16 radiali, vedo via 30 anni e oltre, 35 anni, una cosa del genere, eppure ha sempre funzionato sino all'ultimo giorno quando ho deciso di buttarla giù, che poi ormai ci mancavano già 7 radiali, e poi i radiali che c'erano nuovi li avevo regalati a una persona un po' imbecille, li avevo regalati, già mai compreso. Perditi no, perché vedi bene, dipende anche dalle riuscite delle antenne, se questo è ovvio, perché si sa, dipende anche dal posto dove sono montate, se c'è una località dove c'è molta salsedine, magari è più corrosiva, dipende da tante cose, può dipendere. Avanti Eugenio. Giulio. Ciao oggi, alle prossime, ci sentiamo. Sono Giorgione di Alghero, sono anche un radioamatore. Ok, sì, ma lascia perdere quella di Gianni, quella di Gianni ha modificato i radiali, ha tolto quelli, forato, messo, sicuramente lì c'è qualcosa che hanno indebolito, sicuramente, perché hanno tubo un radiale nuovo, turbone e bassante eccetera, non è che ne può cadere un radiale, però è pieno, questi radiali pieni sono più pesanti eccetera. Ma io ti ripeto, della mia, non ne ho mai perso radiale, della Mantova 5 e della Mantova 1. E ti posso garantire che fruscia a volte lo vento, no, che ma fruscia un bel, fruscia parecchio. E mai, no, io quel cappelletto di plastica l'ho eliminato, sai perché? Perché c'è una vite che lo mantiene, una vite, e quindi quella vite l'ho eliminata. Ho messo lì, fatto a misura, proprio entrato a forza, un tappo di sughero e poi l'ho siliconato tutto in giro, compresa anche il foro della vite, e l'ho lasciata così. Ce l'ho ancora io quel, chi su boipo, chi pone in punta, non c'è compresa cosa lo vuole fare, mettere un tappo, cosa mette questo polpo, che non serve a niente, intanto quei pezzi di plastica si seccano e si fasciano. quindi, e poi magari ti entra l'acqua perché si è rotto, si è spaccato, invece per non spaccarsi entra l'acqua, ci ho messo un tappo di sughero siliconato bene, ho messo il silicone nel tappo, è entrato a forza e poi siliconato sopra, e non mi è mai entrata acqua, non ha fatto Eva, no, è a posto, è tutto ok, però io ho stamattina la turbo, non so, vorrei prenderla lì, magari la compro per vedere se come era la mia prima, però sono sicuro che essendo una delle prime serie di 10 anni fa, che forse anche di più, magari la piazza non era zingata, c'era qualcosa che non era rifinita bene, se vuoi zendere ha dovuto un razzico. Avanti fra. Senta, Claudio, ti devo chiedere una cosa. Quando schiaccio qua il 27, mi si accende il led della 525. E l'antenna quanti, che distanza c'è una dall'altra? E il mio lato è 4 metri. 4 metri, vediamo se lo fa a me. Vediamo se lo fa a me, anzi no, aspetta, questa no, perché UHF. Accendiamo le V, sto parlando, aspetta che mollo, no, a me non me lo fa, c'hai qualche rientro di RF fra, forse come ha piovuto qualcosa che ti sta facendo questo, ma non è niente, è futtidini, già passa. No, non vorrei che schiacciando mi sentano da una 27 là. No, assolutamente, non può mai succedere, tranquillo. È un po' di rientro di RF, magari c'è i cavi vicini, bagnati ancora, non fa niente, stai sereno, ce l'ho accesa io, no, 525, vediamo, no, quando parli vediamo se ti sento. Ci sono loro lì. Già lo so, c'è il volume basso, no? Io posso, vabbè, dai. Ecco, c'è uno e l'altro. Vai Giulio, riprendi, dai. Ok. Sì, no, non credo che vada in trasmissione, assolutamente, quando così, assolutamente. Tu abbassa appena la potenza, vedrai che non te lo fa più. Sicuramente quello. Perché io ho... A me, se io per dire, non so, ci metto un po' di potenza qua, usando questa radio qua, addirittura mi accende il televisore, e se è acceso magari me lo spegne anche, ecco com'è, ma niente di particolare, no, se metti a bassa per la potenza, usa pochi watt e vedrai che non ti succede più niente, non si accendono più i led, sicuramente quello, perché essendo vicino magari influenzano questo. Tornando al discorso dell'antenna, sì è vero, in punta se si rompe quella fase di plastica può entrare l'acqua, però tiene presente pure alla fine in quel coso lì, in quel tubo di resina che io ti ho mandato come foto, sotto c'è un tappo di gomma abbastanza robusto, di spessore penso che abbia almeno un 2 cm di spessore, ed è infilato dentro a forza che non si staccherà mai, ed è bucato in modo che se entra l'acqua dall'antenna da lì ne scende pure attraverso il tubo, ne scende, anche quello è vero. E quella calotta sopra c'è un collare, un anello sempre in plastica che una volta che è piazzata c'è questo anello che anche quello contribuisce a riparare per non far entrare umidità. Tu prima di mettere quell'anello cosa fai? Prendi il silicone, riempi l'anello di silicone, se lo bolli dentro, una volta che si asciuga, acqua dentro l'antenna non ne può passare nella maniera più assoluta. Certo, poi ma la manutenzione si sa, col tempo ci vuole nelle antenne, tutte le antenne hanno bisogno di manutenzione, così anche le antenne TV, ad esempio i regolatori che ci sono su, vanno anche quelli controllati, quando si avviciniscono il segnale scale, tutte queste cose qua, è ovvio, la manutenzione ci vuole sempre. Avanti Franco. Certo che ci vuole sempre la manutenzione, certo, ogni tanto devo capire, allora, quando l'ho messo adesso non ho fatto niente, quindi, non ho fatto mai niente, però come la scena adesso la rifaccio tutta, la pulisco tutta e aggiusto quello che c'è da aggiustare e poi la faccio tutta nuovo, la pulisco anche. Anche una pulitina si può dare, certamente, Chiaro grigio, non le fa male, togliere lo smog che c'è sopra, perché lo smog si forma con una specie di polvere che poi si pietrifica anche, quello fa solo straccio, lo pulisci, se poi viene attaccato, prendi un pezzo di lana d'acciaio e glielo passi con la lana d'acciaio e ne esci subito, in un attimo, senza nemmeno scalfire l'alluminio stesso. No, ma io ripeto, l'unico problema che gli trovo a quell'antenna è solo il discorso che perdeva il fatto di essere controcircuitato, ma meccanicamente per me è una struttura buonissima, ultima, 4,5, me l'ho misurato anche ieri, il tubo è 4 cm e mezzo di diametro, il tubo centrale, e anche quel tubo che si aggancia poi al tubo al palo, anche quello è una meraviglia, anche quello, perché intanto è a bicchiere, se si muove dal palo, se lo muovi, si mette un dado e stringi, questo è un giro l'antenna, no? A differenza di altre antenne che invece vanno messe a fianco, magari con dei cavallotti vanno messe a fianco. Per me il sistema è buono, meccanicamente è buono. Sì, beh, quelle a cavallotti ce l'antenne da crediti, anche la Mantova 1 e la Mantova 5 c'hanno addirittura con chiave da crisi, tutto l'acciaio inossidabile con delle fasce d'acciaio inossidabile che entrano dentro e poi stringi con la chiave da 13, figurati tu, figurati, ed entra dentro il tubo. Quello a cavallotti sono antenne, quella che avevi tu era a cavallotti, la Sirio 2000, la cosa, la Superstar, come ti chiamavano, quelli erano a cavallotti, l'ho avuto anch'io quell'antenna, la mia era 8 radiali. E vedi, di quella con quel bicchiere che aveva bello massiccio con dentro la bobina, quello non mi ha mai creato problemi con l'antenna. Ok, ma Ponti hanno iniziato a funzionare stasera, lui di molti, se invece non c'è la corrente, qualcuno è salito a attaccare la corrente ai Ponti oggi, con questa bella giornata. No, ma Giulio, guarda che io l'ho usata, il tubo, quando io l'ho era lucido, era perfetto, l'ho passata di straccio, l'unica cosa che io ho riscontrato, che abbiamo riscontrato, è che praticamente la piastra di sotto, dove entrano i radiali, quei cavallottini che ci sono, poi entra il bulloncino, ma chi se lo, a parte i bulloncini che non c'era l'acciaio, quel retro era tutto rugginoso, per il resto l'antenna era perfetta, l'ho usata, mi risuonava in 10 metri, che era uno spettacolo, come la Mantova 1 la Mantova 5, hanno le stesse prestazioni, non cambia assolutamente niente, mi pare ci sia qualche differenza di potenza, ma la potenza devi idratare in 27, 100 watt, 500 watt, allora gare è un problema, bello è una verticale appunto come quella che aveva fatto poi Fabrizio, che teneva più 2 kW, allora andava bene. Io la Mantova 1 ho giovato un buco, ero goccio la vetroregina, mi gioco rimitigato, ho invece fare l'accordo CV doppio, ma tanti anni fa col TL922 della Chievo, invece fare l'accordo in CV doppio, l'avevo fatto in FM, agiteggio, pum, stazionari a 4, un fiago di bruciato, tutto, vi ha fatto un buco della regina, allucinante, vi baciava la mano Trento. L'aeroplano, beh certo, beh quello sì, ma quello è stato un errore, ma senza, è successo così, però no, devo dire che dai, le antenne Sigma sono delle belle antenne, vedi, la cosa, la Sigma, quello dell'827, addirittura comprando la parte, c'era una specie di raggiera, no? E mantieni i radiali anche, perché anche la Sirio, la 827, è un'ottima antenna, anche quella per me è un'ottima antenna. E c'è la possibilità di mettere questa specie di raggiera, non so se l'avete mai vista, e mantiene, non dico a metà il radiale, ma quasi, si avvicina. E dunque resiste molto di più, i radiali così non accadranno mai, assolutamente, non è possibile. E va bene, dai, abbiamo parlato anche un pochino stasera. Tornando al discorso, dai, ti chiamato il PMR, dai, non vedo nessuno, infatti ti ho chiamato, dov'è, evidentemente, infatti appena che è entrato Franco, poi ho chiuso lì il PMR, siamo passati qua. Si vede che il distratto non mi hai sentito o stavi ascoltando altre radio, boh, non lo so. Ma io già vado in PMR, perché so che se non sei in ascolto lì, il 27 potevi essere là, se metti in PMR. Pazienza, dai, fa niente, ci siamo sentiti ugualmente, dai, sono già venuto il desi, e però un po' scendo a mangiare. Avanti fra. Ecco. No, io ho acceso 5 minuti prima di chiamare a te. Questo qua non c'era nessuno, ho acceso PMR, ho sentito qualcosa, prima c'era Alessio, c'era, poi la cosa non intendeva nulla, all'altro, a Graziano, e non mi sono puntato nel mano. Poi sei entrato il buco, cosa mi sono detto? Infatti, appena che sei entrato tu, io ho chiuso. C'era Graziano, ero rimasto io Graziano e basta. Poi il nazionale era diventato dopo Luca, perché Antonello si è deciso, un'ora di tempo ha detto che doveva assentarsi. Luca si era assentato per 20 minuti, ma i 20 minuti erano già passati, infatti ho fatto, chiudendo io e rientrando Luca. Ci hanno lasciato a Luca con Graziano di nuovo, per cui va bene. Vabbè, dai, ci sentiamo alla prossima, dai, a domani. Adesso vado a cenare e poi magari stanotte vediamo un po' la partita. Ciao Cla, grazie per la chiacchierata, a domani. Ciao Cla, anche a te te ringrazio, ci sentiamo domani eventualmente. Speriamo che non piova però, che domani vado pure a vedere la partita. Ma rientro verso le 5, 5, 10, 5 e mezzo massimo. Per cui la partita inizia alle 3, perché domani gioca in casa di punti con la Dorgali, sì. E dunque, speriamo che non piovia, ma comunque staremo a vedere. Di nuovo buonanotte a tutti e due, dai, ci sentiamo. Riprende qua, io chiudo, ascolto il finale, chiudo, ciao. Ciao Giù, sentiamo. No, forse mi sono distratto perché stavo guardando il Cagliari. Ho fatto un gincazzacazzo, manco a fare un gol. Si è fatto umiliare allo Sassuolo, era 4 giornate che non vinceva. Ha pigliato 3 gol, mentre, per carità. Se continua le biglie a Geni, biglie. Il quadro, ragazzi. Non c'è continuità questo Cagliari, allucinante. Adesso vediamo il Milan se blocca il Napoli, ma... Mi pare che Napoli sì, se un buon imbusciato non mira noi. Va bene, poi domani ci siamo noi. Ciao Giù, buonanotte, alle prossime. Grazie anche a te per le due chiacchiere. Vai Franco. Ciao Giulio. Buona carica, buon tutto, buona proseguo di serata. Avanti Bic. Non stai uscendo del radio. Scendo il radio, controlla il microfono. Vabbè, comunque è così fra. Assolutamente. Io la seconda, una ne avevo preso, una sola, una. E poi sono tornato alla Mantova 5 e poi la Mantova 5 l'avevo lasciata qua. E via Pasqua avevo messo la Mantova 1. Poi quando sono tornato qui ho tolto la Mantova 5 e ho messo la Mantova 1 nuova. Però ti ripeto, della Mantova 5 tutti i pezzi, no, i centrali non ne ho, però i piantoni me li sono tenuti, i centrali li ho volati a Fabrizio, quelli della Mantova 5 e quello della, mi pare uno intero o l'altro della metà perché l'avevo tagliato, adesso non mi ricordo, comunque i centrali si erano affesi a Fabrizio per fare una verticale multibanda. Vediamo un po' chi è questo col bip, il bip in show c'hai, però la radio non l'abbiamo sentita. Ti prendi fra un altro 5 minuti e poi andiamo a pappare, così poi mi guardo questa partita. Là ci avevo tutto un nome, tanto mi sono cazzucciato nel gioco, tanto passo di lì, a 1000 lire. A 5,25? Tanto cazzucciato nel gioco. No, io già c'ho sempre tutto il monitor, però quando sono i 27 non mi vale fare ascoltare, quindi tengo... i volumi bassi, però già vedo, adesso non c'è più niente, saranno tenuti a mangiare, però basso perché no, non va bene far sentire se non sembra che stai traslando, quando siamo tra gli amatori magari in VHF o in NHF che teniamo tutto acceso per sentirci così. No, mi... Porca miseria. Questo è Marco D'Alghero, mi ha fatto accettare. Questo è Alghero e non è Sassari quello che ha parlato, fra. Lo so che è. Poverino, ho fatto lo scala magari. Dopo papà, io stavo. Questo è il problema che mi si accendeva quando parlo, no? Invece mi ha toccato il coso di due lume, l'ho messo al massimo, ho girato, non me ne sono accorto. E ora mi sono messo il capo come tappa tutto, perché c'è una voce squillante. Allora non hai sentito la mia? Che cavolo! Beh, quando schiaccio questo mi esce... è come se stessi parlando là. Aspetta che saluto a Marco, aspetta. Così mi dici come senti la radio. Aspetta, sto uscendo adesso con questo microfono? Sì, adesso sì. Ciao Giulio, sono Walter di Aburic. Ciao a tutti, sto provando dei microfoni con il Galaxy, sta tutto bene. Capo, non sono Giulio, sono Franco di Sors. No, adesso stai andando bene, stai andando. Poco fa non riuscivi, sono a bit. Com'è la modulazione, Franco? Buona. Va bene, d'accordo. Dai, provo un altro microfono, sono qui da ascolto. Ok, va. Così sono uscendo. Sì. Questo è il terminal più 3 da tavolo, rispetto all'altro com'è? Molto più forte, più pieno. Questo è più chiaro, vero? Sì. Piano piano arriverò. Va bene. Cos'è che c'è, padre, a voce? Ma perché stai uscendo con questo beep? Mi sembra il filo da cerca di Cambogia. Sto provando il Galaxy, sa. Sì, ma non mi piace la modulazione, è molto meglio le 7007. E vabbè, ma non è brutta la modulazione. Ma se tu lo senti come modulato l'altro giorno era uno spettacolo, questa è cupa, boh, non mi piace. Com'è la modulazione là, Franco, bella? Ma ti dico che tu sei un po' in MQRM, mentre cosa era chiaro, bello forte. Sì, il QRM io. E come fai a sentirmi in mezzo al QRM? E che recensione vai con questa antenna? Ti ho detto che avevi due disturbi sotto, capivi, mentre lui no. Aspetta, guarda, questo è il microfono interno più 3, lo basso, com'è la modulazione? Questa va molto meglio, Walter, rispetto all'altra, l'altra è a cupa, non mi piace. Ecco, questo è il terno più 3 di tavola, come diceva qualcuno, poi c'è il terno più 3 con la saponetta. Fammelo sentire, vediamo se c'è differenza. Questo allora è quello grigio che conosci, con la scritta Turner in celeste, è posizione 4. Va bene, mettilo in posizione 5, così lo regoliamo e lo lasci così. Così è posizione così a manetta, però parto da 0. Così a 0, così a 1, posizione 1, posizione 1, posizione 2, posizione 2, posizione 3, posizione 3, posizione 5, saltiamo il 4, non c'è, 1 era 0, questa è a manetta. No, lo puoi lasciare anche a manetta, sicuramente c'ha... Il Mickey Game basso c'è della radio? Il Mickey Game c'ha questa cosa? Sì. No, è alto. Va bene, abbastanza comprensibile. Non spinge molto, eh? Se tu le metti un MB più 5 lì è da favola, perché tu senti già nello più room e c'è una modulazione allucinante col Galaxy, usa l'MB più 5. Questo è quello del manuale, il più 3 manuale. Non è cupa, Fra, come lo senti tu? Provo a modulare che non ti stavo ascoltando, un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, questo è cupa, come ha detto Claudio, sì. Però Claudio, non puoi fare paragoni a come esce Gianni, a come esce Walter, eh? La modulazione, le corde vocali sono diverse. Ma Walter non pensare che non ci abbia corde vocali. Se lo senti con 7007 o quello grande è spettacolare quella modulazione. Io l'altro giorno è entrato, gli ho fatto i complimenti, non l'avevo mai sentito così bene. Quindi già va anche lui, non è che c'ha. Però Gianni ha un abbinamento favoloso, cioè questo MB più 5 funziona molto bene. Il più 3 non è male, il tane più 3 non è male, Walter. Però sono sicuro che se le metti un più 5, perché c'ha i toni il più 5, capito, Fra? Le regole, i toni con la tua corporazione, con la tua tonalità di voce, ti aiuta moltissimo, quindi puoi salire con gli acuti, salire e scendere con i bassi, capito? Questo qua invece è il microfono normale, ce l'ho l'MB-5, solo che ha il filo strappato dietro, allora lo devo sistemare, ce l'ho, c'ha Tone Mickey Game, Mickey Game, è uno strumentino, vabbè. Sì. No, questa è perfetta, Walter, modulazione tipica del Galaxy, bella, bella ordinata, con i medio alti abbastanza buoni, e il microfono normale, però è molto, va bene. Vabbè. Qui c'è Paolo, Marco, Zod, Domenico sull'R7 Alfa. Sì, già di senso, ma adesso c'è il baracchino, non sapeva niente, dopo ce l'ha fatto. Eia. Oh, Franco, ma il segnale da te lì come SWL era più basso? Cioè il segnale come? Non è fondo scala, che voglio fare una prova a aumentare la potenza. No, non è a fondo scala, è appena più di metà. Ok, allora adesso io tanto c'è Walter, parlo lì e ti faccio due passaggi, ok? Che voglio vedere se è un problema tuo o un problema mio. Quindi passo da 10 watt a 100 watt, vediamo se cambia il segnale, ok? Ok, vai. Sei quasi a fondo scala, per l'altezza non c'è, adesso è a fondo scala. Ecco, già va bene. Ok, torniamo qua. No, era solo una prova per capire. Evidentemente abbiamo qualche ostacolo tra me e te, e quindi il segnale non arriva a fondo scala con 10 watt, ma quando ne dai 100 arriva a fondo scala. Non è un problema, tutto a posto. E me Walter, non ci è uscito. Il Milan te lo guardi stanotte? Oh, Tumbarella. Questo mio padrino non ne posso fare né cacio né formaggio. Intanto sparisci. Questa era la funzione del MP5. No, sto cambiando microfono, la massa trascenda, qui è grande la sala. Sto, già lo guardo, aspetta un attimo. A me lo dici, già è grande la sala. Per carità di Dio. Allora, che 200 microfoni, sino a 300. Prendine uno e guarda, cazzo, ne hai 10 MB più 4, più 5, più 8, più... Prendine uno e guarda se è netta. Ma va da dove prende, da un punto all'altro della sala, fa prendere il microfono? Sì, non vi ho fa ora, fa 200 metri quadri sotto, di bunker, di radio, no di quadri appiccati, no. Quadri non ve ne è solo un radio. Capito? Quattro pareti a scaffalature da 3 metri, immaginati tu, si ti muovi lì, ma siccome io già lo so, basta prendere uno e provare se è netta, se no si fa la connessione Galaxy, perché secondo me l'MB più 5 è più adattato per il Galaxy, perché c'ha il potenziometro per i toni, capito? Quindi ti regoli leggermente il tono e riesci magari a dare più acuto. Ecco. Aggiù collegato al presidentilicolo, aveva fatto Massimiliano Archimede a me il connettore, MC60 presidentilicolo, questa modulazione la senti? La stessa modulazione avevo col presidentilicolo. Ma se non lo sto sempre cercando, se me lo fai non riesco a vederlo, perché avresti. Non è facile da fare, infatti ti dico la verità, non mi vergogno a dirlo, io non ci sono riuscito. Allora c'era Massimiliano operativo, Massimiliano Archimede, il radioattore, operativo, c'era il laboratorio di via Savoia, sono appoggiato, Massimiliano, mi devi fare questa cosa, qua, questo è il microfono, mi fa uno spezzone da qui a lì, ad attaccarmi 60. Ok, vai e prendimi il materiale. Sono andato a Fusaro, ho preso quello che gli serviva, mezz'ora mi ha fatto il dutto, sono arrivato a casa, l'ha già attaccato, Franco mio, uguale, stessa modulazione che Kevod, perché stavi usando il 60, con l'amplificazione inserita è sotto, capito? Perché il processore non ne ha il prese, ma tu devi sentire la modulazione. Ma sta andata ancora lì? Sì, ma non lo sta facendo più, adesso c'è un altro lavoro, quindi no, non ne ha più laboratorio, capito? Però scrivi a pintà. Oh, ma aveva messo anche il down e up, è collegato, perfetto, funzionava il down e up, tutto, cazzo, ma aveva una modulazione favolosa. Poi il presidente Inco ce l'avevo io, che poi avevo venduto, e aveva un 35-40 watt in AM, quindi lo dico sempre a manetta, a barile con un gappa. Me l'avevo detto che esce bene, se lo fate per quello glielo volevo fare io. Va bene, esce, bene, io ne ho fatto esperimenti, ho già abbinato un microfono. Radio Icom con microfoni Kenwood o viceversa, io ho l'adattatore per mettere l'SM20, io ho l'SM20 della Icom, ti faccio sentire l'SM20 sul 440 è da paura, spinge ancora di più dell'MC60. Ecco, immagino che esce bene. Un bel di intrulli ha giovato il microfono, proprio per capire qual era quello, il numero uno rimane sempre il 60, perché sul 60 ci puoi attaccare qualsiasi tipo di radio HF, dai Kenwood, Icom e Iaesio, se no prova l'MC60 con l'FT920 della Iaesio. Ma è una cosa allucinante, non mi avevi sentito un giorno, stavo usando il 920 con l'MC60 in AM. Non me lo ricordo. Però quello ho diretto e l'avevo portato da Andrea Oceano e mi aveva invertito la connessione da Kenwood a Iaesio, perché ne avevo 4 M60, e mi voglio comprare pure un microfono della Iaesio, ma ho detto non ne compro, adesso ci ha dato l'MC60, che c'è una bomba, ma da tutte le, addirittura in banda laterale, quando lo usavo in banda laterale in HF amatoriale dovevo disinserire il circuito di preamplificazione dell'MC60, lo dovevo disinserire perché tenevo il processore dell'FT920, siccome in AM lì a ESO non hanno il processore, allora andavo senza processore in AM, inserendo il preamplificatore dell'MC60, era una cosa impressionante. Aspetta, Clara, voglio provare una cosa, a vedere se va in saturazione. Allora. Satura. Ok, così va bene. Sì, così lascio. Invece adesso ti chiedo un'altra prova. Voglio vedere senza parlare, naturalmente. Schiacciami la portante dove ho parlato io poco fa per capirci. Metti la portante, voglio vedere quanto arrivi. Aspetta che gli collega il microfono. Metti il microfono e schiaccia la portante senza parlare. Voglio vedere quanto arrivi per capire se è praticamente equivalente ciò che mi hai dato tu con quello che ti do io. Vediamo. Ci sei? Sì, schiaccia. È equivalente, perfetto. Non arrivi neanche a fondo scala tu, sei 9,20, manca 20 dB al 40, come me. Aspetta, appena. Sì, 9,20 fra, 9,20, come mi dai tu ti do io, solo che io posso aumentare ancora di più la potenza e quindi ti posso elevare fondo scala. E adesso? Sempre uguale, non fammi da però, cos'è adesso? Ah, vabbè, non me ne accorgo. Niente, è così. Va bene, benissimo. Vuol dire che tra di noi c'è qualche ostacolo che non ci fa arrivare entrambi a fondo scala. Però io ti posso arrivare a fondo scala se aumento la potenza. Tu con quella che non la puoi aumentare, ok? Mi arrivi con quel segnale. Va bene, no, era solo una prova. Ecco, perché gliela posso aumentare? Perché no? Adesso è al massimo. Appunto, è al massimo, io già lo so, i veicolari quanto c'hanno. C'hanno due potenze, LOV e HI. Tu se sei in HI, sei al massimo. Ecco. Esatto. Disabbiamo, no? No, invece io no. Io col 275H c'ho il potenziometro per abbassare la potenza e aumentarla con quello base, no? Già lo conosci quella radio, ce l'aveva anche Vanino mi pare. Ce l'avevo a 10 watt, ho messo a 100 watt, è chiaro che il segnale ti sale, quindi è un problema di potenza. Ma va bene così, non c'è problema. Hai finito di prendere il pullman e il tram per cercare questo microfono in quella stanza? Grazie per il lavoro. Chi? Walter? Domani ci vuole saldare Walter. Se si mette a saldare un connettore Walter se ne stacca le dita. Ma io fra, andate da va, dove vai a maggio? Ma sai, però gliela faccio vedere, perché l'ho messo al massimo poco fa, e se ne ha trasmettere a zero. Ah, le radio se non le usi, che le tiene in ricezione, soprattutto quel tipo di radio che sono tutte digitali, caro mio, non ti aspettare grandi risultati, capito mi hai? Mi fa vedere in privato. Datti da fare, sei pronto per essere dei nostri, hai tutto quello che ti serve. Poi di capo di biglia tira, punto e a capo. E adesso vediamo. Ma che hai tempo, non sei stressato dal travaglio, non hai grandi impegni di campagne, di tutto, eh? Basta, guarda, un'ora al giorno, fra, come ho fatto io, un'ora al giorno. Libro in mano, un'oretta, invece di leggere il giornale, ti leggi una pagina, due, tre pagine al giorno di quello che ti può interessare, di quello che sono le normative, di quello che ti fa un po' memoria. Poi se vuoi il libro di quiz già te lo procuro io. Ti fai quiz a matita, dove sbagli vai a correggerti. Sono sicurissimo al 100% che ce la fai. Tutto da vedere. Sì, poi dal vedere si vede di là. Quando andiamo a Cagliari, chi ci si vede da buio, capito? Ci sono anche i corsi, però andare a Itri tutti i sette giorni, cioè due volte, tre volte a settimana mi sa fare il corso, non so se ti conviene. Però se ti muovi in capo di valla, una cosa, fra, ce la riesci a fare. Ci siamo messi tutti, abbiamo tutti i cani mandronimi. Anima, e beh figli, salute, e cosa c'è al nonno? Ah, sono raffreddore, appigliatomi. Dove si sei fuggito di birra ancora? Sono abituato da brecca. Non hai preso il tuo bevi? Ho sentito quando hai schiacciato tutto. Poverino. A voi intanto ci trimoreggia, di carta e grasso, quando il tuo beccio. Uia, uia. Sì, fra. Lì purtroppo, ma quello lì è quello che usi normalmente anche in PMR? Sì. Quindi lo stai usando solo in U, ma non lo stai usando in V. Vabbè, lì non posso entrare. Lo so, però ogni tanto il posto di, già mai capito, in alto, anche fuori banda, schiaccia, fischia, fallo andare, fai qualche cosa, perché quello è... Già due sistemi, già lo conosci, no? Quindi attenzione, perché ti si può bloccare uno, come era successo a me nell'820H, ce l'avevo sempre fermo in U, sono andato già in V, è andato via l'abortante, ha detto va, l'ho mandato fuori, effettivamente si era bruciato un transistorino, una resistenza, se non mi ricordo che cos'era, proprio perché non lo usavo. Cazzo, no, già... Ogni tanto già salgo e esco fuori banda e mi chiudo quanto brusci, non è dato. Però, tanto per farlo, già me l'ha detto uno di fare così. Sì, perché io adesso ho le radio separate, VU, capito, col duplex, una parte e un'altra, proprio per evitare di... così le uso di più, capito? Uso di più, ne ho tre, tutte e tre separate, basi sempre, le uso con una c'è la direttiva, VHF, e l'altra c'è la, gli altri due ci sono la V-banda, capito? Io Walter, ha avuto il tuo microfono a Gianda Magna che c'è il Milan? Tu dici, è già cominciata la partita? Fra le 8:30 sono, se entra Walter dite a prendere in gomma le vostre mani. Io sto andando a mangiare e c'è la partita Milan-Napoli. Ciao, ci sentiamo domani. Ehi, no, qui non lo mollo, vai, che devo andare a mangiare. Ci sentiamo. Ciao, Clau. Ci ascoltiamo a domani, dai, buona partita. Ciao Fra, grazie altrettanto, saluti a casa. Walter, io sto chiudendo, vorrei andare a mangiare, ciao.